Claudio, fate rispettare il tuo lavoro, e qua tu hai strappato pure. Non ci ha mai visto un cuoco che usciva la mattina. No, non è che devo nascondere niente, capito? E con questo io ho lavorato il mese di agosto, dopo il mese più caldo non perché è caldo come mese, caldo perché è un bel alba, è un bel alba, per esci fuori il gabbo, capito? Invece loro sono rientrati tutti a settembre, belli freschi, quando zio Claudio si è messo tutti i vaccini a norma, no? Ha recuperato tutto, tutto in ordine, e ha consegnato tutto. Va bene così. sia arrivato lui. tanti volte da parte mia. Dopo mi dico, ci ascolti ancora? E io lo sento in mezzo al guerre. Va bene, prima di perderci, domani dai, fate la buona, buon trabacco, buon rientro e buon tutto, dai. Riprendi Claudio, perché io lo sento a malapena, eh. E sì, anch'io. Domani, un abbraccio grande come sempre. Buon rientro, buon tutto, buon lavoro e ci si sente domani. Fate la bella, sia l'andata che al ritorno. E niente, quello che ci dobbiamo dire noi ce l'abbiamo sempre detto, quindi non c'è nessun problema, non aggiungo altro. Un saluto grande, buon rientro, buon tutto con me. Grazie anche a te, Domè, grazie anche a te di cuore. Ciao, buon viaggio, buon tutto, buon rientro. Vai a tu. Eia, buon tutto, Domè, buon rientro, buon viaggio, buon tutto. Cappa, cappa, se ce la faccio al rientro già... ti faccio due colpi importanti, K di Roger. Bene, Meda, ciao Domenico, buon trabacco, buon tutto. Perché non si è sentito che non c'è il rumore? Ah, va bene, non vorrei che si sia offeso. Se non entra, che ora sono? Un quarto, adesso sta la cena. Faccio un colpo di telefono, ma... No, non si può essere offeso, dai. Purtroppo è... È troppo distante andare di qui, io c'è un sacco di cose da fare, arretrate, che hai visto domenica mattina, abbiamo passato un paio d'ore, siamo andati a prenderci un caffè, due chiacchiere con Luigi e poi siamo rientrati subito perché io di sera poi non sono andato da nessuna parte, mi sono messo a fare con la casa, sembra così ma c'è sempre da fare, è 4 mesi che ho preso il locato, è abbastanza in ordine, già l'hai vista, è tutto al suo posto, però... una cosa non ti piace, la devi fare adesso, devo farmi questi termosifoni, non me devo fare per forza perché poi il prossimo mese a novembre attaccano le scaldamento e quindi no, il prossimo mese è ottobre, siamo in settembre, a novembre attaccano le scaldamento e quindi voglio che siano belli asciutti e belli, devo sistemarmi questa cosa, l'antenna, la preoccupazione di questo capo, ma non risponde, non riesco a ritracciarlo, devo anche cercare a lui perché questa è una cosa da fare immediatamente, se riusciamo a farla questa settimana è meglio e quindi non mi stacco molto, non mi stacco molto. Un giorno ne ho tolto tutte le tende, ho cambiato anche le tende, ho modificato i bastoni perché risultavano un pochino più lunghi. C'è sempre cosa da fare anche tu, e quindi deve capire che non è fattibile. Beh, si sa purtroppo è così. No, capiterà qualche giorno che andremo a pallipista e già non passerà molto e andremo a pallipista. Purtroppo quando è così all'improvvisata, da oggi a domani è dura, e viene male, capito? C'è una cosa organizzata magari è diverso. Niente, cosa vuoi dire? Io non penso che sia una persona che si offende così, non avrà capito anche lui, dai. Io lascio sempre un attimo di bianco. Non lo so, Monto. Non c'è una persona molto sensibile a queste cose, quindi non vorrei veramente che si sia offeso perché non siamo andati. Ti ripeto domani, se non lo sento, le faccio un colpo di citofono e così vediamo. Bisogna stare sempre in compagnia, sì, però qua non si può. Poi sabato ci avrò anche gente, dove? Perciò non fa che c'è. Ieri c'era gente, l'hai visto, ci abbiamo portato la griglia, la casa sua da sé. La mia è andata in corto, però l'ho visto. stessa mia, se quello piccolo, se è piccola, sarà a 25x25. Cioè, se devi fare due fittine così già te le fa, non è che, capito? No, ma quando è grande, è bella, ci puoi mettere un po' di tutto e già va bene. C'ha quel piattino che ci metti l'acqua per quando sgoccia l'olio. Adesso non so se è uguale a quella grande che avete, capito? Ma più o meno dovrebbero essere le stesse. Sì, questa era bella, questa era 50. 50x25. Bella manna, caspita. E poi era il coso, il piatto sotto, ci toglieva solo la griglia con la resistenza, si sfilava, rimaneva tutto il piano in acciaio non sfilabile. Molto bella, va pagata, mi ha detto tanto una sessantina di euro lì da ombra. Cioè la sentiamo, una trentina di euro lì da ombra. E mi dica una, mi dai di ghiscia, 40 euro stamattina. Gamba. Argentina. No, poi se una persona in gamba non ci stanno problemi. Aspettina, ce ne posso con la gente, ce ne posso. Mi dispiace che non c'ero la trombetta di Siano alla Gina. Mi dispiace, non c'ero il cugino di mia socia, che ti desse. Mi dispiace che non c'ero, non me la so un caso. Perché tu stai a guardare da sotto, il ministro presidente dell'antimafia che è seduta. Già lo credo, sono una persona in tocco, una persona nazionale, purtroppo, e lo so, quando io penso che nella vita chi si sa comportare va sempre avanti, e vedi adesso prendi questo quel sindaco che hanno sparato lì, chissà cosa tutto c'è in mezzo, ma io penso che chi si sa comportare nella vita va sempre avanti, io l'ho sempre detto, ribadisco sempre le stesse cose. Nella vita bisogna sapersi comportare, non venuta da a quel sindaco di Salerno, lì ho subito poco, però quando si è capito pare che fosse implicato in qualcosa di grosso, si parla di concussione, in atti d'ufficio. E quindi sai, organizzazioni fasulle, cose fasulle lì, sia a Salerno, non sia a Sassari. Ti sparano, non è che stanno a pensarci due volte, tu mi ce la fai, devi morire, non c'è cosa di andare lì e scusarti o rimediare. Lì purtroppo, lì e in varie parti d'Italia sono così, è come la nostra zona, no? Fino a quando siamo a Sassari tutto va bene, sai. Sì, qualche pistolettata c'è stata, qualche fucilata c'è stata, o per gelosia o per questione, ma non abbiamo più grossi problemi di Pasqua, non abbiamo grossi problemi di nessun genere, ma la zona del Nuorese, il problema della faida, del problema del pascolo, eccetera, lì ci mettono un po', quindi ci hanno girato la pittura, infatti due. Sì. Io mi ricordo tanto tempo fa, mia sorella lavorava su a Salerno, per dire una, abbiamo accennato a Salerno, e lì lavorava a casa di questo avvocato. È uscita qua la spesa, ma è tornato, ha trovato la testa appoggiata al cavolino. Caput. E chi non ti ha dato il tempo? Non ti danno tempo. E ma io ho visto anche di peggio. Ho visto anche di peggio. Però dico, se c'è un risultato valido, un qualcosa valido per arrivare a questo punto, come dicevo qui, cioè arrivare a quello vuol dire essere proprio delle carogne, appostarti e sparare a una persona così a sangue freddo, non affrontarla, sia una carogna, capito? Perché con le armi siamo buoni tutti a difenderci, se invece ti sei difendi con le mani. Però io dico una cosa, io dico, almeno io penso e dico che è così, se io non faccio del male, non ottengo del male, se arrivano quello, se mi viene, c'è qualcosa che lui ha fatto, è possibile che ammazzino una persona così, capito? Un qualcosa tu hai fatto, non vanno a ammazzare le persone così, tanto per ammazzare, ma se l'hanno ammazzato c'è un motivo. E ci sarà un motivo, magari un mistero, perché lo saprà solo lui e sarà portato nella tomba, però è così, capito? Se tu sei onesto nella vita sarai sempre una persona onesta. Lo so, però lì andrò da cosa a cosa, non è che uno, se non sono abituati a parlare, non sono abituati, cioè Sicilia, essere avere, non lo so, non so neanche come definirlo, tanto deve avere sangue freddo forte, ma poi è non avere proprio la testa, perché se tu ce l'hai con una persona, aspetti che quella persona sia libera, non in mezzo alla gente tu vai a sparare, perché anche quel ragazzo che è morto di 27 anni, dove vicino a Catania, e quello sì, era un pregiudicato, ma da niente, 27 anni, questo qui è già combinato, tanto sia per i nascenti. Allora, figlio di un boss catanese, quindi affiliato ad una alla mafia di quelli piccoli, quindi tutta la generazione, mi nomi, hai due mobili a fare, te la fanno pagare a te, che magari hai fatto una stronzata, hai rubato una macchina o una partita di droga non consegnata, l'hai consegnata e dentro di là, c'è un livello di stronzate, capito? Ti fanno fuori, non c'è niente da fare. Sto passando nel biliardo con un uomo di 60 anni che non mi trova nulla, cioè ci buci, è tipo un far west, non va bene, non va bene perché coinvolge persone che poi non c'entrano niente. Ah, sì, quello è vero, perché non ragionano, cioè è un qualcosa, vai, ragiono prima, cioè non passare subito le mani pesanti. Ma si discute, si cerca di trovare un accordo, ma non è che subito pacca da bum bum, arma in mano, vai e fai le fettine, no, non esiste più. Belli hanno quella mentalità lì purtroppo, ui, e anche io ho visto delle belle scene, caspita, ui, per carità, io qualsiasi città lì l'ho fatto a Bersano per vittima, Salerno, Vatipale, Ipoli, lì, Sparature, guarda, a Caserta non ne parliamo, ma a Caserta li sparavano da fuori dentro la caserma. No, è una cosa assurda, non prendono ragione, non è che dicono, cavolo, ma cosa sto facendo, no, qui gli andiamo all'arma e fanno fuoco, non stanno lì a guardare chi c'è, chi non c'è, no. Non ne può fregare di me, capito? E purtroppo è sbagliato, lo so, è una mentalità sbagliata. Io sono del parere che se un qualcosa uno vuole affrontare e venga a mani nude. E a mani nude ci divertiamo. E ovvio se viene un'allarma, purtroppo non è che puoi fare più di tanto, ma con mano in mano penso che qualcosa si riesca a fare. No, non ci sono più i tempi di prendersi con le mani, una scartottata come si usava un tempo indietro, no, adesso c'hanno i coltelli, hanno armi, hanno tutto, capito? Non fa, molte volte è meglio evitare che affrontare le persone, capito? Però dipende, è tutto un discorso che dipende dalla persona. Capito? E lo stato come di tutto io. Nessuno si sente. Sì, io sono d'accordo con te, infatti il mondo è cambiato per quello. Oggi come oggi c'è più delinquenza proprio per quel motivo lì. Perché la gente non ha più la capacità di difendersi con le mani, ma invece con le armi, come hai detto tu, con coltelli, pistole, fatto l'accetta, veramente chi doveva fare l'accetta, così era la roncola, tu mi difendi come una roncola, erano degli archi, capito, erano degli archi. Comunque non vieni qua, ti faccio vedere una cosa, a proposito di quello che stiamo parlando. La gente non è però così come sembra, capito, perché se uno si può avere una discussione con una persona, con qualcuno, ci arrivi tranquillamente, discuti, se puoi passare le mani, va bene, no? Però lì, in quel territorio, succede come è successo a Napoli da poco, dove no, a Napoli, vicino a Napoli, provincia di Napoli, che praticamente si sono prima insultati all'interno del bar. Sono usciti fuori, ha ricattato, chi dovrà pigliarli, non ci sto io, è andato a casa. mezza giura, ha pigliato la vettura e è tornato in Chivi. Chivi era già tranquillo, ha appoggiato lo banco, ha avuto due colpi di vettura a muscio. Quindi a questi livelli dobbiamo arrivare. No, infatti, no, io sono contrario a queste cose, cioè se prima si faceva la scatottata, poi si finiva tutto, non si arrivava a queste cose pesanti. Oggi purtroppo, fratello, non ti puoi pidare nessuno, ma di nessuna pena, che ti puoi pidare una pugnalata da vita di padre in questo manco, capito? E una cosa, guarda, stiamo arrivando proprio tipo qua questa, che non esiste, prassi la legge a modo suo, non esiste, va bene, evitare, finché si può evitare, evitare, perché oggi no, è troppo sporca la cosa, non va bene, se prima si poteva fare la scatottata, chi è più forte qui, che è ancora la terza, e si finiva lì, oggi è scatottata a fare, quello c'ha le pare in tasca, quello c'ha la pistola, quell'altro c'ha il fuetto, quell'altro c'ha la roccola, l'accetta, che fai a me. Non fa più, non è più, oggi il mondo, a parte è cambiato il mondo, guarda, per carità, no, neanche parlarne, guarda, molte volte, neanche parlarne. Cambiato solo, ma non hai visto come il fiorino è stato povaraccio, cioè deve essere come il rapimento, era un marcato subito, era giocato nel suo stesso terreno. E pare per una coglionata, capito? Pare per una coglionata, quindi il suo socio, perché sembra che c'erano degli ammanchi nel potere, capito? Degli ammanchi nel potere, nel senso che a quello che si che stanno dicendo, che si legge dai giornali, ammanchi di bestiame. Quindi faccio dei vatti, mi rivendo, lascio una fruttiviana e donne di rogo, eccetera, oppure roba di bilancio, insomma, di dinamo. Non è possibile che due che sono soci da tantissimo tempo e si conoscono, guardi che è un pari, arrivino a fare una cosa del genere. Ma cioè, a un certo punto le capacità mentali sono proprio andate a farsi fottere, perché se uno mentalmente sa, ha fatto quello che ha fatto questo imbecille, non si può assolutamente fare. Non sei capace di discutere col tuo socio, di affrontare l'argomento, sì, guarda, mi sono serviti dei quattrini, ho dovuto prendere, ho dovuto del bestiame, vedo un po' di recuperare, di fare, cioè nulla. Moscio è su tarrando in Chivi, lo mattessi dopo, e le rende come rapimento. Testa è una cosa allucinante, ma quando mai, infatti, cosa costava di sono serviti di questi denari, adesso cerca di recuperarli, fare di tutto, cazzo, ma arrivare ammazzato così come un carrai, no, è inaccettabile, sono cose inaccettabili. Io vedo in quei casi lì, molte volte, sarò crudele, però credi, credere, la pena di morte ci vorrebbe, in certi casi la pena di morte ci vuole, non ho venuto a fare, inoltre noi stiamo lì, li metti in galera, 30 anni, 40 anni, l'ergastolo e cose, non ho venuto a fare, sei uno delinquente, e delinquente si dimori, non ho venuto a fare, e qualche cosa, provvedimenti bisogna che si prendano, perché se noi lasciamo fare oggi, lasciamo fare domani, diventeremo una massa di delinquenti. Sì, andiamo a mettere i cani, uno mette là, uno con l'altro, ma non va bene, capito? Non vanno bene queste cose. Assolutamente, io sono contrario. Perché se io sbaglio, sono umano e pretendo di essere corretto, se ho sbagliato, ti chiedo scusa, ho sbagliato su questo, ho venduto questo bestiame, vado di tutto, lo recupero, ma non mi devi che si ammazzava una grappa, una mucca, una vacca, una cosa, assolutamente guarda. Sì, ma poi le persone che lavorano assieme, che hanno combattuto, perché c'è stata un'intervista l'altro giorno sul TVG, dove appunto c'era un'intervista sei lì, se hai affrontato assieme al tuo socio mille problemi, e quella era una persona abbastanza ricca perché era il padrone di quasi tutti i terreni che ci sono al pascolo lì della zona di Frulina, secondo me c'era una spicciola. Non c'era nessun problema per poter arrivare a fare una cosa del genere. E quindi a questo poi si aggiunge tutto il resto, la forza mentale che ha avuto di ammazzarlo lì, sotterrarlo e far finta che l'avevamo rapito, quindi mettendo la macchina in una posizione per depistare le indagini, far vedere, capito, il telefonino, qui. Tanto avevo coraggio per farci indossi, ci vuole coraggio, per il mondo d'oggi non è che uno può affrontare questi problemi giornalmente, non è giornalmente che li stiamo affrontando, dugna lì, c'è Crona Canera, e la Crona Canera sta arrivando anche dalle parti nostre, lascia perdere l'Alta Italia che siamo un po' abituati, ma sta come la zona di Nuoro, è l'ordine del giorno, qualcosa si sta sentendo ogni tanto nella provincia di Sassari, però se ci fosse un po' più di tranquillità e ognuno facesse mia colpa, perché purtroppo siamo persone umane, quindi è umano sbagliare, o con una parola o con un atto di qualcosa si può sempre sbagliare nella vita, però si è umani, si parla, si chiede scusa e si finisce lì, ma accanto che si arrivi a uccidere una persona solo perché ha venduto una cosa che non era la sua, evidentemente gli è servita. Quindi parliamo e risolviamo il problema. Certo, molto su terreno dove ammattessi casa, quindi nel suo stesso terreno è stato sotterrato. L'hanno trovato quando erano lì. Allora, cioè proprio. Guarda, io ho fatto uno sporto, diciamo, anche brutto, perché è pericoloso quello per cui, però caspita, ammazzare una persona così, cavolo, non ho parole, chiaro, una persona ricca, perché io penso che anche questo cugino, i soldi mica di mancarsi, cazzo, prendersi per un bestiame, cioè, per un capo di bestiame, cioè, è una cosa assurda veramente, sì, stiamo tornando al tempo del West. Ammazzarsi così senza motivo, senza niente, uno gira il gallo, mandano, avanti e porto le strasce, capito? Come quei studenti dell'America, la mattina si alza così con i diritti per la testa, si hanno i fucili e poi lo strasce, cioè stiamo arrivando proprio a non avere più testa, va. Veramente, guarda, se ne sento, io pensavo fossero finite queste cose, ma mi sa che stanno andando e peggiorando, veramente, guarda, ogni volta che io accendo il televisore, non tutto mi viene il pelo dritto, perché non è possibile, capo. Ma perché, Antu, non è che delinquente si nasce, ci si diventa, perché se tu vedi persone che nell'arco degli anni hai visto tu, ho visto io, ho visto altri, che sembravano persone tranquillissime, poi si sono affiancate a delinquenti, quindi tu dici Ulisi che Marco Lodò prepara a duplicare, no? E lì ci si diventa, non si nasce, perché l'educazione i nostri genitori ce l'hanno data tutti. mia strada, quella è la tua strada, vatti tu per la tua strada e io vado per la mia. E grazie a Dio mi ritrovo gli anni che ho sulle spalle e sono stato sempre tranquillo e sereno. Grazie a Dio non ho mai avuto niente con la legge. Spero che nel futuro ne abbia ancora meno. E niente, allora hanno fatto la sua strada, hanno fatto il suo cammino e niente, ce l'hanno. Ma è vero, non si diventa, non si nasce, è vero, si diventa. È vero. Però c'è una cosa da dire, che se non vuoi diventarlo, basta cambiare strada. Perché una cosa mio padre mi ha sempre detto, tu ricordati una cosa, che l'amico tuo, il più caro amico, è il portafoglio quando è pieno. Quando tu c'hai il portafoglio pieno, puoi andare in capo al mondo. E proprio sono parole dette da una persona anziana che ha vissuto e mi ha visto di cotte e di crude. E così che io ho sempre cercato di evitare queste cose, a parte che non mi andavano, io la persona lavoro a casa lavoro, divertimenti sì, quanto ne vuoi. E niente, tutto qua, non andare proprio sulla brutta strada, non mai e poi mai mi è passato per la testa. E così, bisogna ragionare con la testa, non con i piedi. Io sono del fattore che bisogna ragionare. Non basta una, due o tre, ma 100 volte, bisogna far ragionare la testa. Sono venuto da là. Se quelli ti fanno trasportare, vuol dire che proprio si è bassi fondi, non venuto da là. Kappa. Detto questo, io dico solo una cosa, preghiamoci la salute che oggi forse è la cosa più bella che c'è. E ora si è cantato quello che mi ama. E lo fa le cose più belle, le più cinque lo fa molto. Sì, ma a volte sono anche le amicizie, capisci? Cioè, quando poi ha quegli attimi così di ira, perché mai l'ha visto fare, perché è portato da chissà che cosa. Non è facile, capito? Ripeto, non è che ci si diventa delinquenti, cioè si nasce delinquenti, ci si diventa. E ci si diventa andando con persone che magari non hanno la cosa. Adesso ti prendo a casa, lascia le sigarette lì, lasciale lì, occhi da golfi, se ne vanno a prendere migliaia di sigarette. Prendi, gira il padre e ti dai, no, vai, parlo due, a me non me lo dici. prende due nomi e te li saluta. Cioè, però non mi puoi trasportare a fare una cosa che io non voglio, contro la volontà, non esiste. Io sono stato sempre nel padre e dire no, vado sulla mia strada, Leo, non Leo, se Leo ne mangio, se non Leo non ne mangio, però vado sempre per la mia strada, non è che se non mangio la mia madre delinquente, ma non esiste proprio. Però purtroppo torniamo al discorso delle frequentazioni, delle amicizie, molte volte le amicizie ti portano sulla brutta strada, capito? Ma non dipende sempre dalla personalità. Se tu non ti va di fare quella determinata, di prendere quella determinata strada, dici no, qua se io prendo la strada lì, non è che devo mettere la presa a te che vuoi fare per dire delinquente o un rapinatore, quello che sia che si sia. Capito? No, a me è piaciuto sempre andare per la mia strada. Eppure opportunità ne ho avuto, anche il fattore di cose di fumare, lo spinello, fumare lo spinello, ma a me non mi interessa fumare lo spinello, io vado a fumare lo spinello, ma vuoi un pacchetto di sigarette, a me non me ne ho fatti nulla. Eppure lì, quelle persone lì adesso sono tutti tossici, tutti. No, stiamo scherzando, vai, dai. Facciamo ragionare con la testa, non le tiri, che non ha senso. Se non mi va, te la porti, tu però non parlo io. Infatti io non capisco, non capisco perché uno si debba fidare di queste cose. Sono tentate, non è che tu stai dicendo mi sto fidando perché a me mi ha chiamato Antonio, ma tu se le faccio sta cortesia, ma non succede solo via mare, succede anche via terra, no? Capito? Ma me lo porto questo a Cagliari e a oggi, sì, ma gente professionista che va a Cagliari tutti i giorni, non lo deve stoppare, lo lasci lì in quel bar, già passiamo a prenderlo. Vabbè, cammino, quando lo pone un cofano, ti ferma la pattuglia della stradale, ti perquisisce, ti trova questo pacco, lo mette la bonimo e ti si arruina. E cosa dici tu? Va tu Claudio a portarlo a Cagliari e lasciarlo in quel bar. O darci che ti salvi, siamo perfetto, andiamo assieme. Andiamo assieme, lei faccia la strada normale come la deve fare e noi ci accostiamo e vediamo chi ritira quel pacco. Ti bucia e va. Se effettivamente la cosa è così, ma se non è così, tu hai perso tutto quello che ti hai creato in 30 anni, 40 anni, 50 anni di serio lavoro e di onesto lavoro. Come succedono queste cose? Quindi fidarsi è bene e non fidarsi è meglio, no? Si dice così. Però questi delinquenti che vanno a ammazzare la gente così, sono anche dei sicari. È gente mandata, è gente pagata, perché il vero mandante, quello è nascosto, quello è un latitante, e quindi ti impone di fare determinate cose, o perché glielo devi e lo devi fare, perché sono favori a te, oppure perché hai preso denaro. Quindi non si finisce mai questa cosa, ma fai da perché c'è, perché devi ammazzare prima il fratello, poi il fratello del fratello, il fratello dell'altro fratello, lo cugino, lo babbo, lo nipoti, certo tutta la famiglia devi terminare, e non c'è niente da fare. Sì, purtroppo è così. O partire di un favore, o fare una cosa per l'altra, sì, si va a venire a quello. Perché non ci sta più il ricatto, lì ci sta purtroppo la pelle. Tu a un certo punto ti costringono a fare quello che non devi fare, o quello che non vuoi fare. Capito? Lo so, purtroppo funziona così. È sbagliatissimo perché è sbagliatissimo, però niente, no, io non manco, manco per l'anticamera, né per denaro, né per niente, no. Il mio lavoro e basta. Voi, se ne ho, però sempre onestamente. Io quando voglio camminare, ho sempre detto a testa alta, non voglio avere problemi con nessuno, no. Assolutamente no. E lo so, purtroppo ingenuamente la gente lì si ci butta così senza saper niente. La legge non è presa, la legge ricorda non è presa. Mi basta la soffiata. Basta la soffiata, vedete, se va tutto tranquillo, a parte la soffiata e si è buttito. La soffiata è tutto. Ma sono tutti invelenati, ma tu pensi che a Sassari la questura, i carabinieri, la guardia di finanza non sappia dove effettivamente devono lavorare? Ci sono centinaia e centinaia di pubblici ufficiali, sia i carabinieri, polizia, i guardia di finanza, girano in borghese, sono in borghese, si entrano in quei personaggi che tu manco ti immaginesci, capito? Si filtrano da tutte le parti, ma non è gente di Sassari, no, tanto gente di fuori, gente continentale che tu non conosci, che tu non sai manco che è un finanziere, quello è capitato a me da Ramo l'anno scorso di questo periodo. Di questo periodo c'era un ragazzo negro che vende roba portata da fuori, no, un marocchino di Chicago, un negro che ha un macchinone allucinato, gira in Mercedes, lui apre il cofano e c'ha roba allucinante, può essere taroccata, non taroccata, comunque roba bella, roba sacca. All'interno c'è un finanziere che io conosco molto bene, mi ha preso caffè 5 minuti prima di me, mentre le pagine del Cinto. E mi dice, c'è il picchio. No, perché? No, mi fa male un po' l'occhio. Perciò non ha capito un cazzo. Niente. L'altro è passato il zino, era tutto un colpo, mi ha detto vai di, nulla. Questo ha parlato con me. Io giustamente non è che non potevo far finta che mi sono accorto che lo conoscevo, no? E niente, ho aperto la sacca, mi si è fatto della roba quella, quell'altra, io sono rimasto lì fermo il bancone con il caffè assieme a questo finanziere che poi è un graduato abbastanza. Il mio paesano, tra l'altro, di Porto, cosa che fa servizio qua a Sassi da tantissimi anni, eravamo a scuola assieme, figura. Come ha aperto la sacca, si è avvicinato, ha tolto il tesserino, metti tutto dentro, vieni con me. L'ha portato fuori, ha preso il telefonino, ha chiamato la pattuglia e ce l'ha portato dentro. Sì, cretino, sì, ma non ha mai tutti vivi a fare una cosa del genere in locale pubblico, in locale pubblico ci sono tutti. Poi tra l'altro ha chiamato me anche, mi ha detto ma lo conoscevi questo attuato, devo dire la verità, prima ti posso dire male, sì, ho visto che volte qua, sapevo che faceva, insomma, campa facendo queste cose, era una persona abbastanza tranquilla, lo so. Però che hanno sequestrato tutto, gli hanno messo 6.000 euro di multa a un poveraccio, che sicuramente è un poveraccio, un imprenditore è un poveraccio, però non ti puoi fidare a tu, non ti puoi fidare, perché sono a tutte le parti, dentro Sassari, ce n'è a bizzeffa, lo sai che quest'estate era narcotici, era anche alla Sinara, un borghese. Io ho conosciuto 3-2 mi hanno salutato perché non potevano salutarmi, che sono di Sassari, anzi uno di Porto Torres, tra l'altro molto molto conosciuto perché è un grandissimo pezzo di piglia in culo, e ho detto allora sei in vacanza qua, no, non di servizio a Ginara, a Arcutici. Lo so che sono dappertutto. No, ma è così Claudio. Oggi quello che ti sembra che lo sia, tutto zingaro, tutto vestito male, eppure quello è un raccontito della raccontici o carabinieri, o finanzieri, o poliziotto, e tutto un miscuglio. No, ha bisogno di credita. Ce ne sono e parecchi pure. Capisco, non li conosci, io questo lo stavo prendendo il caffè assieme, tra l'altro la moto lo vedo. Ce n'è anche che non conosci. Quindi che ti inghiombano in alto e tu non sai mai cosa ti succede. Capito? Come è successo da un'altra parte, sempre lì gli appalti, siamo entrati con il meccanico a prendere della roba lì allo spaccacristi che c'era in via Pascoli, poi si è trasferita, siccome è un amico, non ha fatto scontrino, ma così ingenuamente, e là c'è da fare tutti lì. Abbiamo preso, io no, questo mio amico, un meccanico c'è lì in via Danuzio, Walter ha preso due deodoranti, perché doveva, non mi ricordo, alla figlia doveva andare in campeggio, eccetera, due deodoranti, ho fatto io, le frigge, insomma, cazzati vicino, siamo usciti, e la dico, anziani tre, uno era una valigetta, già pronti, uno era una borsa, intenti, favorite lo scrutino, per favore. Inverno del 2000 con i carabinieri o con la stradale in coppia, e in zone di quelle ronfie, in zone ronfie, non c'è già di tutto. Quindi, non è detto, basta che scatti l'ora X dove il prefetto decide di fare raso al suolo, siamo tutti tutti, tutti, tutti. Siamo creati tutti, perché allora in circolazione ci sono tutti, tutti, dalla razzetta, e siamo tutti, perché non hai scappato. Perciò, se ci fosse un po' di controllo, guarda come si è pulita la zona del mondo, da come c'era questo. La neve del vito, se c'è in giro, la delinquenza, a me piaceva proprio quello, perché era molto tranquilla in quel senso. Mi lasciavo sempre la furgonetta, anche aperto, non mi hanno mai toccato niente. Ma avevo il garage, non mettevo la macchina in garage quando era a riposo, se no era sempre fuori, non mi hai toccato niente. Non mi attaccato niente, mai. Non ho mai aperto un negozio lì, nulla. Niente. Perché sanno che non possono più farlo. Mentre prima era il top del top lì, no? Sia il Monte Basso che il Monte Alto. E luci, controlli ci vogliono, controlli, però teniamo conto della delinquenza, ripeto, ribadisco che nessuno nasce delinquente, ma si diventa andando a frequentare personaggi di fama molto, molto pericolosa. Vabbè, mi sembra che stasera ci abbiamo detto un po' di cose. Sono 10:15, tu domani sei a trabacco, io invece mi godo questi 4 giorni, 5 giorni, vabbè, ho copiato sabato e domenica, rientro lunedì, perciò, ma ce l'ho a fare anche domani mattina, mi alzo presto, vedo un po' di organizzarmi le cose che mi sono già preparato, quindi ti metto il microfono a te e poi vi ci vedo che fare. Ti ricordo che il tipo della malvita mi ha telefonato, se mi fa la cortesia domani, se devo uscire, farti un giro, vedere un po' di buscare questa malvita, o per 1400, non 16 valvole, normale, 5 porte delle 89 da promesse, di catalitica, cioè catalizzatore, vedi un po', classe A. Il terminale, la barrita, il terminale, e questa qua non si è fatto più sentire. Se mi fa questa cortesia mi fai sapere cosa costa e mi informi domani pomeriggio quando esco dal trabacco, dai. Buonanotte, buon... tutto, saluto da te, guerra familiare, e non ti preoccupare. Per quella parte lì non ci sono problemi, domani mattina risolviamo il problema. Capito? Non ci stanno problemi, facciamo un colpo di lampazza a lui, ci mettiamo d'accordo, come se si sta a banco, si va lì e si guarda il lavoro. Non c'è problema. Caparoccio, detto questo, buonanotte con tutto e ci riascoltiamo a domani pomeriggio. Kappa. Ciao Fabi, buonanotte. Ciao Antonio, buonanotte. Lasciami ritiro questo, ho visto la canaletta già asciugata e la chiudo. Va bene, visto che è tutto a posto qua, continuo a non rilevare nessuna cosa, sarò dura e poi me ne vado a nanna. A domani Antonio, ciao, grazie di questo e di tutta della compagnia. A domani, ciao. Ciao, a domani, ciao, buonanotte.